nella festa del Corpus Domini che abbiamo celebrato, nella solennità che abbiamo celebrato domenica, come ricordate, abbiamo letto nella messa l'istituzione dell'Eucaristia secondo il Vangelo di Marco. Mi piaceva tornare su questo Vangelo nella nostra orazione, che ci può aiutare in questi giorni in cui stiamo continuando a meditare sul mistero dell'Eucaristia attraverso la devozione della benedizione eucaristica e della Dorote Devote recitato e meditato. E ecco, allora, il primo giorno degli azimi, scrive San Marco, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Ecco, allora ci soffermiamo un po' su questa domanda. Non immaginavano con ogni probabilità i discepoli che in quella Pasqua, per quanto il Signore avesse promesso il dono dell'Eucaristia, il dono del suo corpo e del suo sangue come cibo, che attraverso questo mangiare la sua carne e il suo sangue avrebbero avuto la vita eterna, sarebbero rimasti con lui e lui in loro. Non possiamo immaginare, ma pensiamo, no, ecco, che sia stata anche per loro una sorpresa. In ogni caso, questi discepoli, ecco, vengono fatti, per così dire, partecipare da Gesù a questo grande dono che stava preparando per loro, attraverso la loro, possiamo chiamarla così, la loro iniziativa, la loro responsabilità personale, la loro partecipazione. E subito dopo Gesù dà a loro, mandando due dei suoi discepoli, appunto nel luogo dove aveva pensato di mangiare la Pasqua, gli dà delle indicazioni molto precise. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà il piano superiore di una grande sala arredata e già pronta, là preparate la cena per noi. Per cui Gesù ha molto presente il luogo dove ha pensato di celebrare la Pasqua e di mangiare la Pasqua, e quindi il luogo dove avrebbe poi istituito questo sacramento della sua presenza in mezzo a noi, avrebbe reso i suoi apostoli in grado di rinnovare, ripresentare questo sacrificio incruento di lui che si offre al Padre attraverso il pane e il vino, e che sarebbe diventato per noi l'alimento, un momento quindi culminante di tutta la tua missione, Gesù, in mezzo a noi, e anche veramente importante perché tu possa rimanere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e perché noi possiamo partecipare e prendere parte in modo pieno al tuo sacrificio, non solo, ma prendendo parte al tuo corpo e al tuo sangue, identificarci con te profondamente. Pensate che consolazione ci dà e anche che sicurezza ci dà il fatto che l'identificazione con te, Signore, che tu ci chiedi, no? E per cui tu sei venuto al mondo, perché ciascuno di noi potesse diventare figlio di Dio nel figlio unigenito, perché ciascuno di noi potesse vivere la tua stessa vita e potessimo andare in tutto il mondo a portarti, e che questa identificazione possa avvenire in un modo così sacramentale, possiamo dire, ma vero, reale, e quindi un'identificazione che avviene anche se noi siamo un po' distratti, anche se noi siamo un po' assonnati, giorno dopo giorno, e quindi noi possiamo appoggiarci su questo fatto che abbiamo mangiato il tuo corpo e il tuo sangue, quindi siamo Cristo, quindi possiamo andare per le strade del mondo a portarti, perché ti portiamo con noi, ti portiamo con noi. Eccolo, quindi questo e tanto altro che anche noi in qualche modo non sappiamo, ci dimentichiamo, un mistero così grande che appunto ha bisogno di meditazione, di riflessione, poi che comprenderemo come un po' di più, no? Nell'eternità con il Signore, quando ci saranno svelate altre cose. Un mistero così grande, ecco, per cui è comprensibile che Gesù abbia pensato dove, non solo quando, ma anche dove, e abbia misteriosamente preparato questo momento. Questo padrone di casa evidentemente sapeva già qualcosa, ci immaginiamo, no? E conosceva forse Gesù, Gesù gli aveva già chiesto qualcosa, o sua madre, o qualcuno, ecco, delle persone a lui molto vicine, ma gli apostoli no, perché non sanno. Ebbene, se tu, Gesù, sapevi tutto questo, avresti potuto, con un atteggiamento così insomma, di chi guida i suoi discepoli in tutto, dirglielo già, no? Oggi vi do, come dire, gli avvisi della giornata, no? Succederà questo e quest'altro. Domani faremo questo, è tutto programmato, è tutto previsto. E invece, perlomeno secondo questo racconto di San Marco, aspetta la voglia dei suoi discepoli, il desiderio dei suoi discepoli, la domanda dei suoi discepoli, quindi aspetta la loro domanda, no? Per dire come è importante che noi, come è importante la nostra iniziativa, come è importante la nostra voglia, il nostro, detto in termini più appunto divini, il nostro rispondere all'ispirazione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Ed è bellissimo vedere questa attenzione a Gesù dei suoi discepoli. Dove vuoi tu, no? Dici dove vuoi e noi faremo qualunque cosa perché tu possa mangiare la Pasqua, no? E possiamo dire che in questo dialogo si vede come Gesù, i tuoi discepoli, in questo momento poi si disperderanno, poi si noterà la loro e la nostra fragilità e debolezza, però in questo momento sono centrati su di te, no? Sono cristocentrici, no? Hanno Gesù in mente e sanno che è lui, come dire, il padre di questa famiglia nuova, no? che ha instaurato e insomma gli chiedono di esplicitare il suo desiderio nel Vangelo di Luca, il desiderio di Gesù è espresso con quelle parole, con quella reiterazione, perlomeno nell'originale, che poi viene tradotto, era tradotto ho desiderato ardentemente, adesso è tradotto in modo diverso, ma ho desiderato con grande desiderio, no, di mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire. Allora questo desiderio fondamentale si esprime anche nel desiderio di dove mangiare questa Pasqua. E chi ha avuto la fortuna di fare il pellegrinaggio, uno o più pellegrinaggi in Terra Santa, sicuramente si ricorderà in questo momento, ecco, il passaggio nella sala del Cenacolo, la messa in quella chiesa lì vicino, nel Cenacolino. Com'è importante anche questo luogo, no? Per la nostra fede, no? Il luogo dove Gesù, tu hai istituito il sacramento dell'Eucaristia e questa tua presenza in mezzo a noi, che per noi è adesso, grazie a Dio, quotidiana. Ecco, e attraverso la messa a cui partecipiamo. E poi è il luogo delle apparizioni da risorto, è del luogo della preghiera con Maria, è del luogo da dove escono ricevuto lo Spirito Santo per annunciare, no, tutto il Vangelo, no, quello che è accaduto. Quindi mi tornavano in mente pensando alla nostra Eucaristia, quindi l'Eucaristia che alla fine ci dice, ecco, andate, no? Andate in pace, però andate anche ad annunciare, no? Che pare che sia il senso, no, di quel ite missa est, andate, no? E mi tornano in mente quelle parole ormai diventate famose di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. La Chiesa che si intitola proprio prendere l'iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Primerear, prendere l'iniziativa, vogliate scusarmi per questo neologismo. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore. E per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Con queste parole del Papa ci risulta ancora più chiaro la bellezza di questo inciso del Vangelo, su cui magari altre volte possiamo sorvolare perché andiamo subito al racconto dell'istituzione dell'Eucaristia che viene dopo, no? Invece oggi ci soffermiamo per dire: è bello vedere Gesù come i tuoi discepoli, i tuoi apostoli, diciamo, reagiscono con iniziativa alla tua iniziativa. In fondo, queste parole del Papa ci aiutano a leggere così il Vangelo, no? È grazie alla tua iniziativa, tu li hai cercati, no? Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Cioè, infatti il Vangelo racconta, no? Alcuni sono stati portati, no? Pietro d'Andrea e Natanele da Filippo, però altri sono stati, e in ogni caso poi è stato Gesù a prendere l'iniziativa di chiamarli, altri sono stati cercati da lui, no? Seguitemi e vi farò pescatore di uomini. E poi andò sul monte a pregare tutta la notte, e poi dopo sceso scelse quelli che egli voleva. Ma è tutta così la tua vita, Gesù, è stata l'iniziativa di Dio, no, Dio che ha creato questo mondo, che ha creato ciascuno di noi, che ha creato la storia, a un certo punto ha deciso, o forse da sempre, no? Di entrare dentro questa nostra storia e essere con noi, e quindi camminare su questa nostra terra, prendere la nostra carne nel seno di Sua Madre Maria, cioè percorrere la nostra strada addirittura proprio fin dal primo istante, con quei 9 mesi passati nel seno materno a lasciarsi intessere, no? Da Dio attraverso la madre. E ha percorso la nostra strada, ha voluto vivere la nostra vita normale, la nostra vita di lavoro, la nostra vita di ogni giorno, i nostri dolori, le nostre speranze, le nostre delusioni. E poi finalmente, negli ultimi anni della sua esistenza, si rivela e sceglie i suoi discepoli e costituisce il primo nucleo della sua chiesa. Quindi l'iniziativa dei suoi è corrispondenza all'iniziativa di Gesù. Come sperimentiamo anche noi, no? Quando si sta con una persona che ti ha cercato, che ti valorizza, che ti vuole bene, che ti vuole bene così come tu sei, no? Penso che quelli che sono stati a Palermo con il padre l'hanno sperimentato anche in questi giorni, no? Come è più facile avere iniziativa, no? Proporre cose, dire, raccontare, farsi avanti. E così accade, così proprio così accadeva ai nostri fratelli, i primi fratelli nella fede in Cristo, negli Apostoli. Accadeva così e loro, quindi, qualche volta è anche vero, nel Vangelo racconta che hanno un po' di paura perché si sono accorti di aver sbagliato. Di cosa parlavate lungo la via? Parlavano di chi fosse il più grande. Però in questo momento, ecco, ha più forza la spontaneità. E pensiamo che, e possiamo pensare quanto la nostra iniziativa, la nostra spontaneità può entrare in gioco con l'Eucaristia, no? Sicuramente l'Eucaristia sempre e dovunque nel mondo dovrà contare sul lavoro dell'uomo, no? Quello che noi, che il sacerdote quando fa quella benedizione, che riprende proprio la benedizione che si usava, che Gesù stesso nella cena ebraica, cioè prendendo il pane, no? Ringrazia. E prese il pane e recitò la benedizione, no? Questa benedizione faceva riferimento, ecco, sia lodato Signore nostro Dio che fai scaturire il pane della terra. In qualche modo queste parole risuonano nella benedizione che il sacerdote fa sul pane. Quindi il pane è frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E il vino lo stesso, no? Frutto della terra e del lavoro dell'uomo. E sempre noi, in qualche modo, per celebrare l'Eucaristia, attiviamo un lavoro, no? Una preparazione, pensate alla cura della liturgia, ecco. E pensate alle persone che per raggiungere l'Eucaristia devono fare molti passi, no? O molti chilometri, organizzarsi perché per poter essere presenti. Abbiamo sentito, no, quei racconti più di uno, no, di queste persone sulle Ande, no, che fanno magari a piedi scalzi ore di cammino per arrivare a quella messa che finalmente si celebra dalle loro parti, no? Però possiamo pensare a questa nostra iniziativa, anche all'iniziativa, pensate, di unire a Gesù Eucaristia coloro che ancora non lo conoscono, coloro che magari lo hanno abbandonato da molti anni, no? Un cappellano del campus biomedico mi raccontava che a volte trova tra i malati a cui si rivolge, beh, succederà in tutti gli ospedali, no? Anche persone che magari non frequentavano i sacramenti da molti anni, no? 70 anni, 80 anni. Ed è molto bello pensare che appunto l'iniziativa, in questo caso del sacerdote, ma non solo, no? Di offrire questo possibile ritorno alla comunione con Cristo, no? Confessare i peccati e tornare all'Eucaristia, sia facilitante, no? Così è in tanti casi, no? Un amico che suggerisce all'amico di andare a pregare davanti al tabernacolo, no? Davanti al tabernacolo, a fare l'orazione lì, anche se per pochi minuti. Sappiamo quanto è efficace, no? Quanto poi ci pensi tu, Gesù, a illuminare la mente e a riscaldare il cuore. Poi sono importanti tante altre cose, ma com'è importante questa realtà essenziale della vicinanza a Cristo e poi ovviamente anche la comunione, ma in questo momento, con la festa, in questi giorni, dopo la festa del Corpus Domini, noi meditiamo principalmente sulla presenza di Cristo che adoriamo, che è stata portata per le vie, per le piazze delle città e dei paesi in tutto il mondo, nella scorsa domenica o lo scorso giovedì, quando si celebrava questa festa in molte nazioni del mondo. Il discepolo diceva al Papa, un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po' di più di prendere l'iniziativa. Come conseguenza la Chiesa sa coinvolgersi. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli, il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli, sarete beati se farete questo. Quindi noi ci coinvolgiamo in questo brano di Marco si vede come Gesù apprezza l'iniziativa dei suoi discepoli e li coinvolge e gli dà questo incarico molto dettagliato e poi coinvolge anche, oltre ai discepoli di cui ha accolto il desiderio, e l'iniziativa, anche questi altri, io penso che siano due persone diverse perché, anche se qualcuno, vabbè, comunque queste due persone diverse, quest'uomo con la brocca che è molto misterioso perché era un lavoro che facevano le donne, di andare a prendere l'acqua al pozzo, ma comunque è un uomo sconosciuto e non sappiamo neanche se lui stesso era consapevole di essere presente nell'eternità di Dio, nel progetto di Dio, nel pensiero di Dio, nel desiderio di Dio, presente lui con questa sua azione quotidiana, banale, di servizio, di lavoro, il lavoro quotidiano nascosto di uno qualunque, no? Come siamo sotto gli occhi tuoi, Gesù, gli occhi di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, gli occhi di Santa Maria, tutti i giorni nel nostro lavoro, anche quello nascosto, anche, o forse soprattutto quando quel lavoro diventa faticoso o ostico, o ci sono, ecco, ostacoli che lo rendono, ecco, questo chiediamo al Signore che ci possa ispirare sempre, che lo rendono quel lavoro ancora più facilmente unibile a questa cena all'Eucaristia perché è unibile alla croce del Signore. Quel lavoro, quella contrarietà, quella difficoltà, quel fatto che sia non so, un lavoro appunto particolarmente difficile, chiediamo la grazia al Signore che ci aiuti a identificarlo con quel dare la carne e il sangue che Gesù dà in questa prima messa. Prendete questo è il mio corpo, Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza. Incruentamente Gesù dona il suo corpo e il suo sangue, cosa che farà poche ore dopo sulla croce. Questo brano del racconto dell'Eucaristia in Marco è incastonato, come possiamo immaginare, perché conosciamo la difficoltà di quelle ore di Gesù, tra il racconto del tradimento di Giuda. Allora Giuda Iscariota si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù e gli promisero del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Questo viene poco prima, subito prima di questo racconto che si leggeva nella messa del Corpus Domini, e subito dopo, quando cantano l'inno e vanno al Monte degli Ulivi, c'è la profezia di Gesù sul fatto che anche loro che hanno ricevuto l'Eucaristia, la prima comunione, anche loro lo avrebbero abbandonato. Tutti rimarrete scandalizzati. Gesù disse loro questo, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. E Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ecco, nei Vangeli il racconto dell'Eucaristia è incastonato in questi episodi di tradimenti e di rinnegamento, di fragilità. Che bello vedere Gesù come tu dai l'Eucaristia sapendo questo e sapendo anche che quell'Eucaristia non sarebbe stata sufficiente per rafforzarli, tranne il discepolo amato, per poter stare sotto la tua croce, ma tu la dai lo stesso e la dai tutti i giorni. Tu ti fidi della forza del tuo corpo e del tuo sangue, e in fondo ti fidi che noi prima o poi arriveremo a essere identificati con te. Questo essere incastonato dentro, no, a questi episodi di peccato, ci aiuta a correre all'Eucaristia per ricevere la forza. E ci aiuta anche, quindi, l'esempio dei discepoli che si fanno avanti, la consapevolezza di quell'uomo misterioso che partecipa all'Eucaristia con la sua acqua. Sarà stata un po' di acqua da mettere nel calice come usavano fare e come anche noi continuiamo a fare, un po' d'acqua nel calice. Quell'acqua che quell'uomo ha preso alla fontana. E poi anche ci aiuta quella disponibilità del padrone della casa, di dare la sua casa a Gesù, di dare quella sala grande. Anche lì non sappiamo, probabilmente non era consapevole quel padrone di casa che la sua generosità sarebbe stata ricordata nei secoli e per sempre, e tutti i pellegrini a Gerusalemme sarebbero andati nella sua casa a toccare, no, quelle pareti, a stare nel luogo dove si realizzò quella cena. E come tu, Gesù, hai, possiamo dire così, anche nel caso di queste persone, hai fatto in modo che dovunque, come si diceva dell'unzione della donna a Betania, dovunque sarà predicato questo Vangelo, si dirà quella piccola cosa che queste persone hanno fatto, magari inconsapevolmente, e mi hanno aiutato a celebrare l'Eucaristia, a rendere possibile, a rendere reale questo sogno mio, il sogno di Dio di poter stare con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, di poter anche oggi, tra poco, nella messa, entrare nel nostro corpo con il suo corpo, no? Nel nostro sangue con il suo sangue, nella nostra anima con la sua anima, nella nostra vita con la sua vita, con tutta la sua vita, entra nella nostra vita. E noi vogliamo vivere la tua vita grazie a questa forza che tu ci doni quotidianamente e che Maria ogni giorno, ci favorisce, no? Intercede per noi, come allora, dietro le quinte di quella sala. Ci immaginiamo che Maria possa avere aiutato anche lei i discepoli a preparare tutto.